Europa 24 notte. Ben ritrovati da Valeria De Rosa a questo appuntamento con Europa 24. Da oggi, per 4 puntate, ripercorreremo la crisi greca dall'inizio fino all'accordo non ancora definito, siglato lo scorso luglio. Lo faremo assieme al professor Marcello Messori, direttore della Lewis School of European Political Economy, e assieme al professor Giuseppe Di Taranto, ordinario di storia dell'economia. E allora cominciamo proprio dal principio. La bolla greca scoppia nel 2009 e ottobre, quando il neoeletto premier Papandreou ammette che i conti del paese sono stati falsificati. Il deficit, invece di essere al 6,5% del PIL, è oltre il 12,5%. Il tasso di interesse sui titoli di Stato a 10 anni schizza al 5%. Papandreou addossa la colpa al governo di Karamanlis, in carica nei 4 anni precedenti, ma i segnali di squilibrio erano presenti da anni, come spiega il professor Di Taranto. Il buco nero è stato creato sicuramente dalla facilità della spesa pubblica greca e in particolare poi dai giochi olimpici, come ben noto. Però c'è anche da dire qualcos'altro, cioè nel 2009 Papandreou ha riconosciuto e ha fatto conoscere al mondo, non soltanto all'Europa, qual era la reale situazione della finanza in Grecia, e nel 2010 non a caso è arrivata la troica, formatasi proprio per il caso greco. Bene, ad allora, ahimè, la politica economica dell'austerità ha soltanto aggravato, e non poco, le condizioni della Grecia. Lei ritiene che in qualche modo ci sia anche una responsabilità europea nel non essersi accorti che i conti greci erano sostanzialmente truccati? Sì, sicuramente c'è stata anche una responsabilità europea, perché bisognerebbe appunto capire come sono fatti i controlli sui conti da parte dell'Unione Monetaria Europea, quindi sostanzialmente dall'Eurostat, dalla stessa Commissione Europea. Ma qui mi lasci però dire qualcosa in più. È vero, la Grecia aveva truccato i conti, ma siamo poi certi che le regole invece europee del Trattato di Maastricht, del Trattato di Lisbona, siano state applicate e non interpretate dagli altri paesi? Mi spiego meglio. Guardi, i famosi due parametri, deficit PIL al 3% e debito PIL al 60%. Ebbene, il Trattato di Maastricht è del 7 febbraio 92. Pensi che al 31 dicembre del 91, dei 12 paesi che poi sottoscriveranno il Trattato di Maastricht, 5 erano fuori dal rapporto deficit PIL, 4 erano fuori dal rapporto debito PIL. Forse è allora, anzi diciamo da allora, che si può cominciare a parlare di finanza creativa. Allora non si possono applicare rigidamente le regole agli altri e interpretarli per se stessi. Alludo chiaramente ai paesi del nord, in particolare alla Germania. Nella primavera successiva il paese ha bisogno di aiuto. Senza un sostegno economico c'è solo il fallimento. Sentiamo il professor Marcello Messori. Nel 2010 la Grecia non fu più in grado di finanziare questo debito pubblico sul mercato, e quindi con molta fatica l'Unione Europea e l'Unione Economica e Monetaria Europea organizzarono un intervento di sostegno per consentire alla Grecia di finanziare il proprio debito pubblico senza emettere titoli del debito pubblico da vendere sul mercato. Come ricorderà, c'è stato prima un accordo bilaterale fra gli Stati membri dell'Unione Economica e Monetaria Europea da un lato e la Grecia dall'altro, con il coinvolgimento già del Fondo Monetario Internazionale, e di lì è incominciata una storia molto accidentata che ha visto, prima delle vicende odierne, ben 3 ristrutturazioni più o meno esplicite del debito pubblico greco. Ed è tutto per questa prima puntata dedicata alla crisi greca. Un saluto da Valeria De Rosa. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.